scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per l'ultimo appuntamento della stagione con le nostre voci in scena, i grandi protagonisti dello spettacolo. La prima voce in scena di oggi è quella di un artista italiano in bilico tra rap, pop e cantautorato. Buongiorno a te che c'è la faccia pulita, che nella tua vita non hai visto mai una salita, e la prima che incontri sarà tutto più chiaro. A volte esiste il dolce, a volte esiste l'amaro, pesa la solitudine. Il suo vero nome è Silvano Albanese ed è nato a Nocera Inferiore nel 1983. Cresciuto a Roma da giovanissimo writer, a 19 anni dà vita al suo primo progetto musicale, Il Circolo Vizioso. Nel 2007 forma il collettivo Broken Speakers, portando avanti parallelamente una carriera solista. A fine 2009 nasce il suo primo album, Figlio di Nessuno. La svolta arriva con l'uscita del singolo e del relativo video Nella Casa. Nel 2013 pubblica il suo album Non Erano Fiori con la collaborazione di Riccardo Sinigallia. Arriva alla top 10 degli album. Nel 2014 collabora con i rapper Jamie Tides e Madman. Nel 2015 completa il suo terzo album in studio, uscito il 4 settembre. Niente che non va. Buongiorno a te, a te, a te, numero uno. Dovrai fare i conti con la rabbia dei secondi. Dietro di te, di te, di te. Lui è Coez. Tornare è sempre, sempre bello. Diciamo che sono. È un po' appunto che sto fuori dalle scene, quindi sono abbastanza carico, però allo stesso tempo ho metabolizzato parecchio, nel senso, comunque io questo disco ce l'ho pronto da un bel po', e negli ultimi mesi quasi l'ho messo nel cassetto e ho un po' spento tutto quanto, diciamo che ho avuto in realtà un blocco a metà disco, nel senso ero entrato in questa specie di, non so, di blocco che non mi capita mai a metà di un disco. Di solito mi capita prima e poi esce tutto insieme. Questa volta forse ho voluto forse anche un po' alzare il livello, perché comunque il disco ci sarebbe stato comunque, anche con gli altri pezzi appunto che avevo scritto. Solo che parlando anche con il mio discografico, con il mio manager, abbiamo detto alla fine non c'è fretta, dobbiamo solo fare un discone, e quindi mi sono preso un po' il mio tempo per fare, cioè comunque per veramente spingere al massimo. Nessuno te lo ridà, questo qui non ti piace, meglio il mio disco vecchio. Continuate a parlare, parlare, parlare, che tanto alla fine sto ancora qua. Quando diluvia, quando il sole non c'è, non c'è nessuno che ti salva da te. E il disco è arrivato, anche se la gente non è mai contenta. Still Life, questo qui non ti piace, è meglio il mio disco vecchio. Continuate a parlare, parlare, parlare. Che rapporto hai con le persone che parlano in rete? Che... Perché da questo verso io ho intuito che un po' ti fa male. Beh, un po' brucia sempre, secondo me, nel senso... Comunque tu metti in campo... Quando scrivi, cioè ad esempio io quando scrivo parlo sempre di cose molto intime. E l'oggi è quando comunque metti in ballo determinate cose, ti dà fastidio se comunque qualcuno le recepisce in modo sbagliato. È chiaro che poi non potrai mai mettere d'accordo tutti quanti, però a volte insomma purtroppo il web comunque dà voce a chiunque, nel senso io alla fine arrivo alle mie conclusioni e ci metto tanto tempo. Magari anche io quando ho scritto un pezzo come Ti Sposerai ho detto vabbè dai, ma che sto a fare, nel senso una roba tipo mezza hawaiana, comunque questo testo così morbido, o comunque questa melodia così morbida, cioè sapevo che mi avrebbero distrutto per un pezzo del genere. Però poi alla fine ti guardi dentro e dici vabbè, ma io questa cosa la penso davvero, mi calza a pennello, sì, e alla fine la fai uscire. E quando arrivano le critiche comunque ti cioè comunque non so, io sono abbastanza permaloso, quindi un po' suscettibile, quindi alla fine sì, mi incazzo un po', ecco. Le viole erano rosa, le margherite blu, allora è vero, non ritorni più. Le stelle sono tante e forse anche di più, sarà la nostra e non la trovo più. E io non ci credevo che stava lì per noi, chissà se pure tu la cerchi mai. T'ho scritto una canzone, quando l'ascolterai sorriderai. Hai citato Ti sposerai, una melodia morbida, ma lo fai apposta che più morbida la melodia, più forte affondi il coltello? Ti sposerai, allora è vero, non ritornerai più. Che è tremenda quella cosa, no? Quando arriva, allora è vero, non ritorni più, è proprio una coltellata al cuore. Eh sì, non è che lo faccio apposta, diciamo che comunque si è formata questa mia vena artistica, insomma, è andata sempre di più verso quella parte. Cioè, anche La rabbia dei secondi, che è un pezzo tutti accordi in maggiore, comunque il pezzo del risveglio, però poi alla fine è molto cinico. Comunque penso che comunque per trattare un tema veramente pesante, magari il fatto di mettere la melodia in contrasto col tema forse lo fa arrivare in maniera più leggera, però l'effetto è sempre quello della coltellata. Comunque costole rotte, bottiglie rotte, questa notte suonerà una sirena della polizia, l'ambulanza tarderà, come fa caldo in mezzo alle porte della centrale di polizia. Qualcuno non dormirà, qualcun altro andrà via. Grida un uomo per strada, venditori di fumo, forse ha perso la strada e non ha una cartina. Vuole fare una bomba e di certo l'accenderà. Gli farà bene, gli farà male, certo non esploderà. Eh no, certo no, non esploderà. Eh no, costole rotte, bottiglie rotte, questa notte suonerà una sirena della polizia. Ti voglio chiedere com'è nata Costole Rotte, perché è quasi un'anti Ninna Nanna con un testo tosto, forte, anche cattivo. Costole Rotte è nato il ritornello, innanzitutto, che ci avevo in testa per un anno, ma proprio era un periodo che giravo tanto in macchina, e sia ombrello che tasche leggere che costole rotte sono pezzi che, dei quali prima ho scritto il ritornello, cioè avevo i vari memo vocali e avevo fatto anche tante altre cose che poi ho portato in studio, ma quelle tre, cioè io il ritornello come l'avevo registrato al telefono mentre magari guidavo in macchina, che magari mi veniva in testa così registravo la melodia oppure me la cantavo talmente tanto e poi lo imparavo a memoria, e poi appunto portati i pezzi in studio poi venivano fuori, cioè già con gli accordi già si capiva che erano pezzi da disco subito. Poi successe questa cosa che furono tutti prosciolti per la storia di Cucchi, e successe un po' un casino mediatico per un paio di giorni. Quando parli di botte della centrale della polizia, sono prese di posizione? Sì, beh, comunque non penso che il pezzo risulti come un facta polis, fanculo tutta la polizia, però effettivamente queste sono cose che succedono. Adesso noi parliamo di Cucchi perché magari la sorella ha fatto il panico, ha alzato un casino, però ci sono tante storie così che magari neanche escono, insomma è pieno. Poi mettiamo che ne so pure un De André, perché dicono, mi è stata fatta una domanda, perché oggi succede questo? Io non penso che succeda oggi, cioè penso che è sempre successo, e che oggi col fatto che i media bombardano e arrivano ovunque in qualsiasi momento, cioè la divulgazione delle notizie è solamente più facilitata, però penso che queste cose sono sempre successe e probabilmente sempre succederanno. E poi volevo dire una cosa su questo pezzo, ecco, che se prendiamo un po' di ecco, forse questo pezzo qua, prendendo le due distanze, è quello un po' tra virgolette più alla De André del disco, sempre con le dovuto rispetto, dovute distanze. Però mi faceva pensare, c'è un momento in cui volevo far cantare anche il pezzo Il ritornello ai bambini, che è un po' la canzone Giro tondo, no? Di De André, che comunque parla della guerra, di questa bomba che cade, i ragazzini fanno il giro tondo. Cioè, comunque pure quello lì, ecco, l'ottica è un po' anche quella, nel senso, non è voluta. Cioè, non è che ho pensato di fare una cosa così come lo faceva De André. È che da ragazzino, cioè, comunque io lo sentivo, perché sentivo dischi di mia madre, e se penso a quella roba là, se la senti tipo, che ne so, dai 3 agli 8 anni, cioè comunque te la porti appresso per sempre. Ho preferito il sole e questa luna, mi sorride e dice buona fortuna, e non avere paura, e la mia penna fuma buona fortuna. Alle parole di una canzone che diceva che la notte è ancora nostra, ma tu non eri lì. Buona fortuna. La mia penna fuma, scrivi in Buona Fortuna. È l'urgenza di scrivere, è una cosa che tu hai sempre, anche chiuso un disco, comunque senti l'urgenza. Sì. Beh, diciamo che quel pezzo è quello un po'. È un po' ponte fra il vecchio me, nel senso in cui inizia il pezzo dicendo belle le autolesioni, ho preso lezioni d'auto per andare a sbattere sempre più forte. Cioè, comunque c'è dell'autolesionismo forte. Però nel ritornello si trasforma tutto, si apre, diventa ho preferito il sole a questa luna che mi sorride e dice buona fortuna, non avere paura, e la mia penna fuma vuol dire che poi la dimensione mia, cioè comunque la cosa che mi salva, è anche durante quella notte in cui la luna mi augura buona fortuna, io inizio a scrivere e comunque, cioè, trovo un po' il mio equilibrio anche grazie a questa cosa qua. Digital Radio Flash, Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in digital. Voci in scena. Eccoci con la seconda parte di Voci in Scena, l'ultimo per questa stagione. E l'ultima voce in scena è quella di un cantautore italiano che, suo malgrado, trionfa sempre d'estate. Che importa se non faccio più tempo adesso? Il suo nome di battesimo è Giovanni Pellino ed è nato a Scafati nel 1967, ma fin da bambino vive a Bologna. Inizia a fare hip hop nell'underground cittadino, ma comincia la sua carriera musicale come batterista in gruppi hardcore punk fino all'inizio degli anni 90. Si fa conoscere con l'hip hop nel 1994 insieme a Deda e DJ Groove, uniti sotto lo pseudonimo Sangue Misto. Ma il 1996 è l'anno del grande successo di Aspettando il Sole. Dopo qualche album e LP ancora nel mondo rap, la svolta nel 2001 abbraccia la musica leggera e il soul e pubblica La mia signorina, singolo di lancio di arrivi e partenze. È il brano più gettonato dell'anno secondo il Festival Bar. Il 2003 è l'anno di Prima di andare via, il brano più trasmesso dai network radiofonici d'Italia, che lancia l'album I molteplici mondi di Giovanni. Nel 2004 si presenta al Festival di Sanremo con Le ore piccole, piazzandosi al nono posto. Nel 2006 esce Il mondo nuovo, singolo apripista dell'album Alla fine della notte, da cui vengono estratti Cambierà e La notte. Compone le musiche per la colonna sonora del film Saturno contro di Ferzan Özpetek. Passione vince il Nastro d'argento come miglior componimento originale. Lui riceve anche 2 nomination al David di Donatello. Nel 2009 il singolo Lontano dal tuo sole e il sesto album Sognando contromano. Nel 2010 fonda insieme a J-Ax il duo Due di Picche, mentre continua a scrivere e collaborare con altri artisti. Il 2013 è l'anno di Molto Calmo, singolo e album. Nel 2015 domina l'estate con Sigarette, ma non è certo un tipo da tormentoni, ci ha raccontato presentandoci il nuovo album Resistenza. Lui è, ovviamente, Neffa. Allora, devi sapere che io quest'estate, quando per l'ennesima volta, alla fine, mi sono trovato nel periodo più bello dell'anno per guardare il cielo, che secondo me è tutto il mese di maggio, il mese di giugno, mi sono trovato sempre chiuso nel mio studio, dove vedo un piccolo angoletto di cielo, e mi sono detto, ma perché? Io mi infilo sempre in questo cavolo di imprese in questo periodo, non capisco, perché ci deve essere qualche cosa all'interno proprio del mio ciclo produttivo che mi porta a essere sempre in questo. Ma io, sinceramente, se tu noti quali sono le canzoni che io ho tirato fuori d'estate, sinceramente io una chihuahua non l'ho mai fatta. Ho sempre fatto canzoni molto mediamente, da medio a molto drammatiche. Penso ad Aspettando il sole, Il mondo nuovo. Certo, ho fatto anche Prima di andare via, che invece era una canzone decisamente più allegra, proprio una canzone molto musicale. Per quanto, insomma, può essere l'ultima buona occasione per me di redenzione insieme a te. Insomma, mi sembrano comunque immagini che non sono esattamente quelle di Mambo Number 5. Più che tormentone, forse la canzone è anche un po' tormentone il tipo di diffusione che ha la musica, ma non solo, penso anche alla TV, al cinema, non solo, le pubblicità. Per esempio, tu quando senti una campagna della Team senti lo stesso pezzo, cioè io quando la Team ha sponsorizzato il campionato di calcio e metteva Heroes, a momenti privava di senso perfino Heroes di David Bowie, perché se tu senti sempre lo stesso punto, You can be heroes just for one day, la senti 27.000 volte in un giorno per 27.000 giorni. Mi sono ripromesso la prossima volta che mi viene voglia di stare in uno studio verso maggio-giugno di legarmi, però al contrario di Vittorio Alfieri, cioè io mi leggo a un lettino in una spiaggia, sinceramente, e vado a guardare il cielo a giugno. Resistenza, c'è la lampadina sulla copertina dell'album, dentro c'è il giornale della Resistenza, spero che non sia casuale questo riferimento all'informazione, che tu pensi ancora che l'informazione sia importante. Resistenza perché? Mi sembra che in questa fase storica gli uomini stiano, come dire, un po' subendo la tecnologia senza uno spirito critico. Poi gli italiani sono strani, cioè tutte le cose le prendono un po' strane, cioè questa roba, prima era Facebook, adesso è Twitter, cioè l'hanno preso un po' troppo, mamma mia, cioè c'è anche qualcos'altro, c'è anche un chiosco di gelati, non c'è solo Twitter, vedi la gente proprio con la faccia nel telefono. Io credo che si faccia, ognuno ha la propria opinione, però credo che si faccia fatica in realtà oggi a coltivare una propria opinione. Di conseguenza Resistenza per me è un titolo a vari livelli, resistenza mia, prima di tutto a me stesso, alle forze opposte che fanno di me una persona travagliata, che però in questo travaglio trova qualcosa di magico che mi fa scrivere canzoni. La musica è fatta anche di cose controverse. Io stesso mi sono a volte posto il problema dei bambini riguardo a sigarette, però se io avessi cambiato quella cosa, per me c'era un effetto butterfly effect, sai, l'effetto di io ho bisogno che io sia totalmente onesto, perché per me questo è il mio, è la mia, come posso dire, il mio impegno politico più grande. Molti pensano che la musica sia politica quando c'è uno slogan, no? Però ho sentito tanta musica piena di slogan che non era la cosa più reazionaria che io potessi sentire, che era la cosa proprio più lontana da una forma di rivoluzione. Mentre invece credo che l'atteggiamento di un autore quando prende la penna in mano, o di un politico quando viene eletto, dica tutto della sua politica. Cioè, se tu quando prendi la penna in mano e scrivi una canzone stai pensando, ok, come faccio a vendere 100.000 copie, come faccio a far sì che questa canzone piaccia a tutti, di cosa posso parlare e di cosa no, c'è una nazione totalmente spaccata da un conflitto sociale, che faccio, sto zitto o dico la mia? Allora queste sono le cose veramente, secondo me, politiche di un autore. Ancora non capisco cosa vuoi di più. Dietro i tuoi silenzi cosa c'è? Scegli l'arma all'alba di un mattino con la nebbia. Conta 10 passi via da me. Voltati e poi colpisci, colpisci dritto al cuore. Uccidi il nostro grande amore. È che non ci sarà più vita dentro le vene. Le stelle sono sogni che svaniscono. Hai parlato di onestà e nei sentimenti, nei testi di questo album sembra che tu ti sia strappato la camicia e tu abbia mostrato quello che c'era sotto. Non hai avuto pudore nel mostrare i tuoi sentimenti e raccontarli? Ma che ti devo dire? Alla fine quello che scrivo ovviamente riflette quello che vivo, no? Qualsiasi cosa esce. Diciamo che la matrice principale è questa qui. C'è una sorta di... Se vuoi, forse... Perché credo di esserci arrivato come persona. Nel senso che la mia vita sentimentale è stata una collezione di... Non posso dirti fallimenti, perché altrimenti direi che la vita è stata sprecata. Però diciamo che... Io credo che quando una persona ti affida la sua parte più tenera, e non vorresti mai che cadesse a terra e si rompesse, però a volte questa cosa succede al di là della tua volontà. Ci sono persone che riescono a ingoiare bocconi amari e andare avanti fingendo pur di continuare a proteggere una persona. Io ho sempre pensato, quando mi sono trovato nella situazione in cui non corrispondevo più il sentimento nel modo in cui andava corrisposto, mi sono trovato a pensare che la migliore forma di protezione fosse permettere a una persona di farsi una vita lontano da chi evidentemente fa un po' fatica a mettere un passo davanti all'altro. Può essere che io sia nato per fare molta strada a vuoto. Credo, ti ho fatto tutto questo discorso un po' da strizza cervelli per dirti che io non vado così profondo ad analizzare me stesso nei testi, però questa tua domanda mi ha dato da pensare, perché io ultimamente credo di aver accettato completamente una mia certa natura, non posso dire sbagliata, però diciamo controversa, no? Che tende poi a creare danni. E in questo senso mi sento uno che non è più capace di fare casino. Questa è una sensazione molto molto rilassante, cioè della serie, credo di aver accettato un po' di colpa. E in questo senso il video che sta per uscire di Colpisci, la canzone stessa, è proprio una canzone di accettazione della propria colpa. Cioè non mi appello più alle attenuanti generiche. Ho letto un'intervista in cui sottolineavi una dicotomia tra Giovanni e Neffa. È molto strano questo. È molto strano perché, anzi, ho appena detto in un'altra intervista precedente che appunto uno dei miei problemi, e credo che sia una cosa che mi abbia creato problemi anche alla carriera, proprio il fatto che non sia mai riuscito a mettermi un vestito da Neffa e lasciare Giovanni a casa. Cioè non sono mai riuscito a creare due entità separate. È anche, se vuoi, un marchio che serve come un po', è come la bandierina di quelli delle guide turistiche, cioè per sapere dove guardare, dove seguire, metti la tua bandierina, però in realtà è l'espressione mia. Ed è tutto per i nostri appuntamenti con Voci in Scena. Da sabato prossimo il nostro consueto appuntamento con il Sabato del Villaggio. Ancora un saluto da Marta Cagnola.